In realtà la parola terrorismo è stata usata dallo stesso ministro dell'interno Roberto Maroni nell'informativa alle Camere dopo gli scontri di Roma, ma è di terrorismo urbano che parla il titolare del Viminale, un'accezione ben precisa che inserisce in un mosaico molto eterogeneo composto da galassie anarco-insurrezionaliste, disoccupati organizzati, ultra, ma anche frange violente di gruppi marxisti. Certamente hanno partecipato alle violenze alcuni dei gruppi più radicali dell'antagonismo. Agli scontri avrebbe partecipato anche un ristretto gruppo di elementi tra i più radicali dei disoccupati organizzati napoletani. La nuova emergenza di ordine pubblico che si è manifestata sabato a Roma, quella che ho definito una sorta di terrorismo urbano, ha la sua principale fonte nell'area anarchica, largamente diffusa in molte aree dell'Italia e dell'Europa mediterranea. Dunque terrorismo urbano, non le Brigate Rosse, non una riorganizzazione terroristica che in Italia evoca il sangue delle P38 degli anni di piombo o più recentemente gli attentati degli ultimi irriducibili di quella stessa stagione tornati ad uccidere dopo maniacali preparazioni e indagini di vecchio stampo, prima Massimo D'Antona, poi Marco Biagi, due giuslavoristi assassinati da un ristretto gruppo di fuoco in realtà. Ed è per questo che Sacconi ricorda giustamente come non serve una possente organizzazione per arrivare ad uccidere, dato ben presente al Viminale, che però anche col sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano si ammette l'esistenza di un clima preoccupante e rimarca che non c'è uno specifico allarme terrorismo. L'organizzazione della violenza fa dire, ma questo è un dato obiettivo da tempo, che non esistono le BR come esistevano 30 o anche soltanto 10 anni fa, ma questo non fa essere tranquilli, raccomanda cautela e senso di responsabilità nello stigmatizzare delle parole che sono parole invece di fondata preoccupazione. Non si può parlare di nuovo terrorismo nei termini in cui se ne poteva parlare 30 anni fa a proposito delle Brigate Rosse. Si può parlare di un clima di violenza nel quale possono inserirsi gesti violenti come quelli che potevano provocare la morte di carabinieri, di appartenenti alle forze di polizia non più tardi di 15 giorni fa. Oltre che inesatto, per uno dei magistrati con più esperienza alle spalle di lotta al terrorismo, evocare quei fantasmi può essere anche pericoloso perché, riflette Armando Spataro, procuratore aggiunto milanese, può perfino sollecitare qualche squilibrato, come dice al microfono di Maria Luisa Pezzali. Parlare di rischio di terrorismo a proposito di un momento come questo di tensioni sociali con temi molto delicati in discussione mi pare completamente privo di fondamento, nel senso che la polizia italiana, intendo le forze che conducono le indagini, che ritengono di grande efficienza, evidentemente la pensano diversamente. L'Italia e la storia nazionale sono ricche di momenti di tensione praticamente ininterrotti, addirittura il terrorismo è fiorito in un momento in cui c'era anche una fase di progresso sociale in atto, no? È una dialettica politica molto corretta e meno ricca di tensioni. È sbagliato, un po' persino sollecitare la mente di qualche squilibrato, sbagliato accoppiare momenti di tensione il rischio terrorismo che ha altri presupposti, presuppone anche l'esistenza di organizzazioni, di menti sofisticate o quasi, quindi francamente trovo profondamente errato. Ecco, accoppiare tensioni sociali e rischio di terrorismo. Un binomio che va separato anche per il senatore del PD Pietro Ichino, che le cosiddette nuove Brigate Rosse avevano tra i loro obiettivi. Un binomio però che non deve bloccare le discussioni politiche, secondo Ichino, che manda un messaggio tanto a chi lancia gli allarmi quanto a chi, come i sindacati, questi allarmi sembra sbeffeggiarli. Credo innanzitutto che il rischio di un'azione violenta da parte di terroristi non sia oggi maggiore di ieri e comunque non debba essere usato per limitare il dibattito sulle questioni di politica del lavoro, soprattutto sulle questioni calde e delicate come quella che è sulle prime pagine dei giornali in questi giorni. Certo, c'è anche un altro modo sbagliato per limitare il dibattito ed è quello di erigere dei tabù. Credo che i sindacati farebbero bene a non ricorrere a questo questa vecchia tecnica di propaganda per bloccare, stroncare il dibattito sul Nasser. Dire questo non si tocca, su questo il legislatore non può intervenire, è sbagliato e contribuisce ad alimentare la tensione. Seconda edizione, Italia in controluce, siamo su Facebook, pagine gruppo, su Twitter, rintracciabili via mail, controluce@radio24.it, torniamo domani 6.30 con la pillola di Italia in controluce.